sono pentito, mi sono solo pentito di aver mollato la mia vita di trasporti, che forse oggi sarei stato a livello un pochino più alto, anche non figurando, cioè figurando, nel senso non lavorandoci, però essendo prima persona, capito? Tipo Walter, ecco, una cosa del genere. Però sono scelte che purtroppo si fanno e alla fine la decisione è quella lì. E vabbè, pazienza. E quindi B2 ti ha recuperato la bicicletta, uscire. B2. Io è da un po' che fare bicicletta. No, io ando a piedi, se non piace in bicicletta. E dove sei andata a comprarla B2? Non l'ho comprata, dovevo fare alcune cosette, capito? Ah, capito, no, pensavo che avessi preso la beta o qualcosa del genere, magari l'offerta. Ho capito, là. E a Porto se ce n'è uno solo adesso che vi aggiusta le biciclette, quello di via delle Invigne. Prima c'era Maletti di Ragazzi e adesso non v'è più, signor Angelo. Ancora via delle Invigne. Quello prima, diciamo, è Ciro, dove abito Luglio. C'era Ciro prima. Ehi, c'era Ciro, poi c'era portato la roba tutta nel capannone che c'ha sui vidriati e alla fine quando è arrivata la cantoniera. C'è un capannone, c'è portato tutta la roba lì e c'è venuto tutto. Non ce la faceva più no qua. Con la fila del diabete c'era questo piede sempre in sangue, si aprivano le ferite, così più gonfio. E gli hanno detto che non poteva più esercitare, così alla fine ha mollato tutto. Poi ha aperto quell'altro più in fondo, in via delle Vigne, dove ci sono i parcheggi della Conad, lì ce n'è un altro, adesso non so se ci sia ancora, perché non me lo ricordo più, se non l'ho più visto, se c'è o no. Ancora c'è quello di in fondo. C'è sempre. Uno viene a Sagambubare, no? Ma è morto Ciro? No, ma aveva regalato l'apparato di tutti quanti a me. Mi aveva regalato il baracchino, un alimentatore, un po' di roba. Io lo stesso l'ho regalato, dai. Se voluto, l'ho preso e poi l'ho regalato per gli amici. E niente. Ma non stava più motivato, ho detto perché non te lo metti Ciro, almeno parliamo e cose, no? Già dice qua è un casino, non ne farò piazzare, fanno casino. Lui la passione ce l'aveva, ma a un certo punto perché lui lo si era applicato per le gare ciclistiche. Io lo so, se ti capita di andare da Gavina già, chiedere che fine ha fatto quel baracchino base che ci aveva al tecnico 46D, magari ce l'ha conservato dentro l'armadio di Ruba e la sua mi esce bene con la radio, 46 canali con la radio da volare. Ma no, guarda ragazzi, sto già paolo si svegli. Ma Giampaolo no, non l'ho mai visto Giampaolo io il tempo di Gavì, c'era un bel fermata, quella se l'ha messo dentro l'armadio perché era di domenico e boh. Se non l'aveva dato a Bartolomeo, non lo so, magari l'ha dato più a Bartolomeo che a Giampaolo, ma non credo a Giampaolo, comunque già glielo chiedo. Tu prova a chiedere se ti capita di andare a portare la spesa o se la vedi. Dice Gavì, ma quel baracchino che ci avevate in via Tre Sacchi, il Tenco 46T, che fine ha fatto? Paga, prendi, glielo chiedo. E il Tenco era valvolare, ci va bene. Dal 40 canali che ce l'aveva Paolino occulto, e il 46 che ce l'aveva Domenico. Non usciva un bel bene, lui lo usava con il microfono normale, usciva un bel bene, mi ricordo, prima lo sciuve in chiuso un panner, che cosa, e poco pompa, poi c'erano quei ratti con la radio, più scaldavano il velo e più pompava. Bellissima, bella anche esteticamente, molto bella, tutta in che le vieni sopra, ma la ricordo, già me la ricordo, sì. Non ricordo il tempo, è una radio particolare proprio. B2, dove sei? Sto per imboccare la discesa del Marini. Discesa del Marini, capito? Ma adesso è col camper, sì. Vabbè, ma vabbè, almeno se vai là, mi direbbe in mani. Che ti disillude. Ho già circolare col campo. Invece mi dicevo per un campo, è una cosa molto strana. Sì, non si muove solo col campo, no. Ci vedremo tutto chi fa, ui, c'ha delle rilevi, sono che non sono viste lucide, perfette. Thank you. Lucio, in che anno, da che anno ci sei tu? Perché sono tutti e due i miei parenti, Eugenio Corso e Francesconi. In che anno ci sei tu? Ti conosco, ragione Mauro. Sicuramente ti conosco allora, ragione Mauro. Vabbè, noi ti devo vedere, Eugenio. Se non ti vedo, no, non me ne ammetto. Io ne ho 52, quindi magari eri più ragazzino di me quando io ero produttore, cioè, quindi la fisionomia, se non la vedo, però ti ripeto, io con Mauro siamo amici di infanzia, molto amici, perché eravamo tutti assieme, io, lui, tutti i fratelli, abitavamo vicino, capito? Virgilio, Bartarelli, Torre Secchi, Giovanni, Lucchi, insomma, la Grecia era tutta quella, tra via Cavour, via Petroni, via Ancicola, erano i sempre tutti in Chivi, quindi sicuramente ti conosco. La Grecia nostra era quella di Antonio Langella, così chiamata, no? Quindi già, se ti vedo ti conosco sicuramente, però con troppi anni così non mi dice niente. Vai già. Cava. Vabbè, magari se mi vedete, tu se non so più la lega. Vabbè, lui c'ha 38 anni però, quindi vabbè, non ne hai tantissime più, no? Tu ne hai 40. Ho 40 io. Sei voluta 40 anni già, perché tu no? Ma tu vai andare tu di dove, se non te, mamma mia. E poi da voi ve l'ha voluto più tempo per andare a pensione. Perché tanto già ci andiamo con questa nuova legge? Ma te lo immagini, ma tu non ti rendi conto di cura che abbiamo preso? Con questa nuova legge poi vogliono approvare il fatto che se uno si scoglia si può mandare via senza motivo, capito? E poi un'altra legge proprio bellissima che hanno fatto, proprio di lì. Guarda, io effettivi, sono proprio orgoglioso di quello che stava per succedere, perché era fatta, io ho fatto 30 anni di contributi al 1 gennaio del 2012 e quindi ero convintissimo che 5 anni passati con molta tranquillità e serenità sarei andato in pensione. Ero proprio giusto, 56 anni. E invece, la giubilata in coma devo chiamare, come ti dice Natalino, hai capito? Cioè, tu ce la fai, il lavoro che fai, Gianni, a andare in pensione a 67 anni, cioè andare in pensione, andare ancora a lavorare a 67 anni. Io comunque ne ho 32 anni come tributo. Ne ho fatto 30, quest'anno faccio il 31esimo. Capito? Ne ho perso un anno, quasi due anni li ho persi buoni, perché non mi avevo versato contributi proprio con la mia azienda, perché volevo provare, e poi invece meglio riscattati tutti assieme, e chi mi lascia di pagare, perciò diciamo che siamo alla pari. Ma il problema è, ce la facciamo andare a lavorare a 67 anni o ci dobbiamo fare accompagnare? Punto di domanda. Ti daranno un nuovo incarico. Non penso che tu vogliamo fare lavori. Ti danno un incarico leggero, se il principale in gamba, a me non penso, ma a te con la ditta che dovrebbero darti un incarico più tranquillo, magari. Vabbè, ce l'hai già tranquillo adesso, ma ti stresseranno di meno, va. Avanti, Bidu. No, poi l'aspettiamo questa pensione, cos'è? Un gruzzolo, non l'avrei mai accusato bambino. Non lo sento più, Eugenio. No, manco io. Eugenio forse ha rifatto. Eugenio. Che deve essere arrivato. Cavagava. No, ma comunque manco fa parlare di pensione. Uno, a parte che quando riceve la pensione, poi cosa abbiglia? 400 io. Ma lasciamo perdere, va. Sempre del 400 al mese è troppo. cosa con 800 euro ogni due mesi. Già, 800 euro li prende uno che non ha fatto nulla, ma se tu lavori fino alla fine vai in pensione con l'ultimo stipendio, non credo che prendi 400 euro, almeno io spero, perché allora sarebbe veramente una truffa aver lavorato per 40 anni e trovarsi 400 euro di pensione, allora è proprio da suicidarsi, capito? Allora, intanto ti caricano, ti contano lo stipendio al netto proprio, quindi senza contributi, senza anzianità, eccetera, eccetera, lo calcolano così. Vabbè, sarà solo la contingenza, non lo so, ma lo stipendio già dovevo dare, nessuno cosa non trovava da fare. Ringrazio il buon fatto, non credo proprio. E beh, poi i contributi li abbiamo dato, non ci spetta. Tanto la pensione non lasciamo altro che i contributi che abbiamo pagato noi. Infatti, 40 anni di contributi versati, senza tutto quello che versa l'azienda ogni mese, penso che dobbiamo fare pochi giochi di fallito. Lo spero, perché alla fine... non si sa mai di cosa si deve vivere con tutte queste nuove leggi, visto che c'è l'euro in metà crisi, quindi stiamo pensando di ritornare alla lira, ma dovremmo la fare d'ora. Prima dice che era la salvezza, l'euro, che solo con l'euro si poteva salvare tutto, poi adesso torna la lira. Per stare come eravamo prima con la lira, io ci metto la firma, io mettevo mezzo milione da parte ogni mese prima, adesso non riesco più a mettere una lira. Ma tu pensi che se torniamo la lira l'inflazione cala, ma manco per le palle, tutto quello che costava con l'euro lo lasciamo fare così con la lira, tranquillo, non credere che se un chilo di patate costava un euro lo trovi a, lo fai a mille lire, lo fai a 50 centesimi, ma chi lo sa, magari hanno avuto la lezione, perché dice che all'inizio avrebbero pensato i finanzieri a farli calare i prezzi e farli mettere in base alla lira, invece poi non hanno mai fatto nulla e ne hanno approfittato. Se andiamo a considerare, Gianni, un pacchetto di sigarette, che prima pagavi, non so, cioè adesso parliamo dell'euro, un pacchetto di camera costa 4,60 euro, togli le 60, 4 euro, 8.000 euro anche, cioè, bugie, quindi le sigarette devo pagare 8.000 lire io, ma stai scherzando. E così è, così è. Infatti io ce l'ho mandato in quel paese già da più di una settimana, non è stato più fumato. Ma è così, capito? È così, no? Non è quello che mi dà fastidio, è tutto il sistema che è stato proprio sbagliato dall'inizio, capito? Perché se un pacchetto di sigarette costava 4.000 lire o 3.000 lire, tu devi far sì che con l'euro costasse 3.000 lire, punto. Non 4 euro, sono 8.000 lire. Se parliamo del vecchio cuneo, come dice Boris, capite? Se parliamo della vecchia lira, sono 8.000 lire, in proporzione all'euro. Quindi tu sei più meglio, 8.000 euro anche da lì, 8 per 3, 340 euro al mese. Diciamo che le sigarette non conviene più né per la salute né per i soldi. Solo mala sorte che sembra che quando sei nervoso ti rilassa. La sigaretta una volta era fuga. Ho provato a mangiare anche le liquirizie, ma me ne sbarrano un pacchetto in 5 minuti. Oh, fino più caramelle le mani ho più fumo, quindi alla fine non conviene. Non conviene. E poi non si invade così, una delle dall'altra. uno andava dall'altro. E allora si è messo a parte, se ne fumi una, due, la cena, e ti ha mangiato? No, adesso vado. Vabbè, ma è un quarto, là, che così faccio magari anche il bambino. Che Liliana è al lavoro ancora. Non so che ora torni, perché secondo come ribiglia chi se lo mangia a chi, se no lo mangia a tardi, deve fare da mangiare, quindi no, non lo so che ora torni. Vabbè dai, vado carico, ma una cosa veloce poi poi. Già sto venendo io. Ok, vedi che stai già pronto là. Che da mangiare. Dai, ci sentiamo dopo già, ciao, a dopo. Ciao B2, se mi stai ascoltando, buona serata. Ciao B2. Attenzione qua sul 10, attenzione sul 10 qua, dai, su, dai, volete la buchetta? Beh, Gianluca. Ciao, ciao. Allora. E qua sono. Andando stai? E qua sono ancora in zona, vedi. Sono a lungomare, a bere cosa cavolo c'è. Pesci. Sei a Polotorre? Pomali, dai, non manco la benzina, non la sprechi. Guarda, ci sentiamo dopo, c'è gente. Ciao Gianlu. Gianlu, mica Claudio ti ha salutato. E Claudio? E ti ascolto, dai, c'è gente, ci sentiamo dopo. Se ne avrò pagato, mi immagino. Dove sei? Al solito posto? Claudio ha detto che c'è gente, ci sentiamo dopo, che è arrivata gente, dai. No, non ce l'avevo io, sono a casa malattia. Cosa, non ti ho capito? Perché se giù vedi c'era la bussola? Ho detto che lì c'era la bussola lì, sicuramente l'ho trovato, dove l'ho trovato? Vicino alla casa dei Cermieri, quella di un'altra. Stavo confermando una cosetta qua. sembra stazionale. Ricavo e tutto, così non manco, non è problema, magari ti ha rotto quel capo, c'è qualche interruzione, qualche cosa, è quello lì che ti dà, o è sbucciato. Ehi, cosa ne sto? Non lo so, no. Ehi, vabbè, adesso devo trovare una mezza sbronata libera, fine settimana cambiamo capo, piazziamo l'altra, questa qui la utilizzeremo lo stilo centrale, vale. E proviamo l'altra, dai. Che radiali non sono buoni? No, vabbè, i radiali sono buoni, sì, ma l'altra è la Mantova 1, quella 4 radiali in fibra. I miei lo stesso erano in fibra, poi li ho messi in alluminio. Quando l'ho ripristinata è pompa di bio. Non lo so, vanno bene. La Mantova 1 l'ho vista, però diciamo c'ha lo stilo in fibra. Questi in alluminio non lo so se li vanno bene, non la conosco. Allora io ce l'avevo di quelli a vite, con la fibra di vetro. Quando io l'ho pulita l'antenna, quei radiali lì deve essere che erano sfibrati, pungevano anche come li toccavi. Li abbiamo tutti togliere con la tela, ma quando li abbiamo tutti si sono spaccati. Allora gli ho fatto un buco passante, gli ho messo dei radiali, quei radiali che vengono da coso, da brico, eccetera, eccetera. Gli ho messo quelli lì a misura e via. Stimata, quella la Mantova 1, c'ha il buco passante con la vite per bloccare lo stilo quando lo infili dentro, quindi sto pensando che questi stili diciamo della base in alluminio, diciamo che sono in alluminio, penso che vadino bene, bisogna vedere la misura. La misura se sono più lunghi di tagli, se sono più corti. No, ma già vanno bene, poi gli ho fatto, una colata di quella colla a caldo in punta. Dopo gli ho fatto il pirillino, tutto quanto ho fatto con vulcanizzato, gli ho fatto il pirillino come sono in origine, no? Ho capito, no, ma questa la Mantova Turbo ce li ha, diciamo, tutti i radiali col cappuccino, diciamo, in plastica e così via. Devo soltanto vedere un attimino se sono della stessa misura. Io penso di sì. Perché, vabbè, i fibra della Mantova 1 sono nuovi, non è che siano filati o così via. Sembra che tu ce l'hai messo da poco. Che cosa? Che l'hai messo da poco, non ce l'hai tanto. No, questa è la Mantova, la Turbo, questa qui, cosa sarà? Ma fa che sarà un anno, dai. È nuova l'antenna, è nuova, soltanto che il discorso che si era diciamo cotto, si era cotto il filo centrale che porta dal PL al collare, e lì si era cotto, infatti il problema è che sta proprio un filettino che fa ridere, la danno per non so quanti kilowatt, ma diciamo, si sono persi lì. Invece la Mantova 1 è tutto un altro discorso, c'è tutta una spirale in rame, proprio un rame rigido, che è proprio dalla base parte e va a prendere, diciamo, la staffa della spirale. Tutta un'altra lavorazione, dai. E ti ho capito, cosa vuoi dire? Si può sempre conservare tutto, sta poi al momento opportuno si toglie fuori. Esatto, però adesso devo vedere un po' perché sono nuovi, diciamo, che questa è un'antenna che mi hanno fatto avere, che era diciamo in magazzino, è nuova, si può dire che è nuova di pacca, era sempre in magazzino, poi per curiosità è andata a vedere e l'ha ritrovata lì. Devo trovare soltanto mezza giornata per buttarla su, piazzarla e buttarla su e vedere un po'. E lui grasso, ricordatelo. Grasso, che grasso. Io ti consiglio quello che ti ho detto io poi, quindi tu. Ma tu stai dicendo grasso di vaselina? Vaselina sull'antenna, e invece quello litio, nel PL, dove c'è il PL, dove ci sono, prima di entrare i radiali, quelli laterali, ti lo metti un po' dentro e poi lo fai, tanto è conduttore. Ah, ho capito, no, ma lì c'erano, stanno i cappucci, diciamo, stanno quella roba lì, vabbè che male, diciamo, non li fa, per diciamo, il discorso dell'inverno, male non li farebbe, diciamo, è sempre una protezione. Infatti. Male non li fa, li fa bene, perché questo verso lo usano per i ponti, per tutte queste cose qua. Va bene, dai signori, che io vado a farmi la mia solita pasticcina e poi mi spiccia. E poi spiccia. Ma tu, ciao già, alle prossime. Ciao, stammi bene, dai, ci sentiamo. Giuseppe, sì. Grazie, sono. Ciao Giuseppe. Ciao Sandri, buona passeggiata con il cane, è buon tutto, dai. Ce la risentiamo tutte le prossimine, cambio. E poi passo. Hai finito questo qua? Cambio. Che passa, cambio. Attento mio hermano, devo scusare per la loggia del Terrone della città di Sassari, che ti supercovializza, avanti mio hermano, vamos a ver. Mi chiamano entra, prima non prega te me lo entra. Quell'X per favore. Attento Sardegna, si ascolti l'isola del canale che ti chiama, attenzione, Gianni W, città di Sassari, si ascolti del canale che ti chiamano, cambio. Canarino, ce l'ha. Vabbè, se ti muori. Oh, dimmi. Non mi dici, Giuseppe. No. Stavo controllando un PL, se potevo saltarlo per farmi uno spezzone. Tu dici, non è tanto nessuno, mi pare che sia Claudio. Boh. No, va su di. Mica? Beh, siamo già su di. Non sembrava che eravamo su 5, non stavo guardando. No, perché ho detto che fosse rientrato. Oh, non lo so. Niente. Chi è? Buonasera. Che avrebbe un buco. Chi è? Antonio, partendo. Vabbè, vice sindaco di Proaga, buonasera. Buonasera, ecco la cibacina del distributore non tutta la macchina piena di fumo. Cos'è? La cibacina del distributore di benzina con tutta quella macchina piena di fumo. E qua, la batteria. Yes. Se ti racconto la storia, lascia per... ti fai quattro risate. Racconta. Ciao Gianni, non più. Ciao, auguri. E oggi sono tanto. Racconta Giuseppe, racconta. Invece di mettere il solito olio normalmente che si riempie, no? Si mette a livello della cosa, no? Ne ho messo 3 chili la prima volta. Intelligenza mia, ho preso e ne ho messo altri 4 litri, tutti c'erano 7 litri di olio. Guarda, ne vuoi più fuori di capo di me, cazzo, va, e se lo racconti che non ci crede nessuno. E Simone cosa l'ha detto? Ah? Simone cosa l'ha detto? E Simone cosa l'ha detto? Vai, mi stiamo toccando, ci... Ah, ma toccato c'è il pazzo, cazzo, mi ha con questa cosa. Ma tu guarda cosa ti vuoi fondere il motore? Sabbia. se volete mettere più sabbia che cemento, cosa ci dipende? Tu ci metti, dica se ti avvicusta. Beh, io dovrei avere ragione. Avrei ragione sì. Stavamo da contare cemento, cemento, 2, 3, 4, 5, io non me ne intendo quella ferita, non gli ho detto nulla. Ma cazzo. Pure lui. Scusate, ma comunque come detti se lo stai facendo già, ci si deve ascoltare. E allora ci sentiamo, là. Ciao ciao, ciao Leon, ciao. Ciao già, ciao, buonanotte. Avanti, Antonio. Sono sempre. Tutto qua, luci, pulito tutto e... Cioè, Si trova solo oggi, ma mi aveva contato appunto al telefono stasera, mi ha detto: guarda Dio mio, non l'ho più vista, non l'ho più fea, non l'ho vista in faccia, perché non ho visto più niente, e riuscì a andare a tirare nuda, mi hanno subito chiamato l'ambulanza, portato via, e è andata bene, ci sono stato raggio con le cade in chivi. Purtroppo è così, sono cose che possono capitare nella vita. Sono cose che possono capitare nella vita, però non bisogna vendersi. Troppo lungo per fare un uomo così attivo, deve fare la riabilitazione appena che può. Non si deve abbandonare a se stesso, se no guai. Vabbè, è forte, già un'altra volta gli è successo, però non così, mi ha detto. Ma già è riuscito a superare tutta la vita. Vabbè, speriamo bene, perché sono ti ripeto, una bellissima persona e quindi dispiace. Mi piace che non c'è nessuno a giocare, insomma. Non ci sono io già, non c'è nessuno, questo cane dici. Già ne si è addormentato, attento lo più brutto. Già esco. Passerà qua, poi ho ricevuto la targetta e quindi mi sono molto lontanato. E adesso una mattina ho fatto un po' di commissioni e poi niente, poi sono a casa e poi siamo a casa e poi alle al meccanico che c'è giù in via Pasqua. che è il suo compleanno, quindi fa Lingo là, ci fa un pranzetto, mi viene ritratto e poi sarà a casa. Devo uscire, ho fatto un po' di commissioni urgenti portare 19 alla lista di controllo. Ci sentiamo, Anto, buonanotte, dai. Fatta la buona, buona giornata per domani, alle prossime. Ciao. Ciao, Frank Lazzo, ci sentiamo. Ciao, ciao.